Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Ritorniamo a parlare di finanza, accantoniamo almeno per 45 minuti tutte le problematiche legate al maltempo che sta imperversando in tutta Italia, con qualche cenno di miglioramento. C'è qualche ascoltatore che ci scrive: ma smettetela di parlare di Milano, siete una radio nazionale, anche ragione, scrivo, lo dico all'ascoltatore di Imperia che ci ha rilevato questo aspetto, ma le posso assicurare che insomma il disagio non è stato indifferente per questa città nelle ultime ore. Detto questo, andiamo al tema invece di Salva Danaio. Come vi dicevo, ritorniamo ai temi finanziari. Lo scorso anno Io non ci casco più, i primi quattro passi per rialzarsi da questa crisi finanziaria, il vademecum blu del risparmiatore utilmente arrabbiato. Quest'anno Io ci provo, come cogliere le opportunità difendendosi dalle spine dei mercati finanziari e dalle proprie illusioni. Questo è il titolo del nuovo manuale di sopravvivenza finanziaria, iniziativa editoriale di una società di gestione del risparmio, Azimut, di un gruppo editoriale concorrente, il Corriere della Sera, ma noi siamo ugualmente felici di parlarne, come avevamo fatto lo scorso anno alla presentazione appunto del primo libro. Di cosa si tratta? Di un nuovo viaggio grazie al quale il risparmiatore può esplorare tutte le trappole mentali in cui a quanto pare tutti cadiamo quando si tratta di pianificare le nostre scelte di investimento. Peraltro il libro esamina proprio 10 trappole cognitive, vi spiegheremo cosa sono, ve le descriveremo. Noi stamattina abbiamo invitato due dei tre autori di questo libro. Il primo è il nostro perché è un amico, Paolo Martini, direttore marketing e formazione del gruppo Azimut. Paolo, bentornato tra di noi, buongiorno a te. Ciao Deborah, buongiorno e buongiorno a tutti. Un Paolo che ha rinunciato a raggiungerci in studio per ovvie difficoltà logistiche, insomma dice prima di partire chissà quando arrivare, meglio che rimanga in ufficio questa mattina, e quindi del libro parliamo a distanza. Paolo, grazie naturalmente, e saluto e ringrazio di essere con noi il professor Matteo Motterlini, è probabilmente il maggiore esperto nel nostro paese di finanza comportamentale, ma fa tante cose, filosofo, economista, insegna economia cognitiva e neuroeconomia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano ed è un autore anche di libri su questi argomenti. Vi do il titolo dei più noti: Economia emotiva e proprio Trappole mentali. Professor Motterlini, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. Allora, naturalmente io vi invito a chiamarci all'800240024 a dirci un po' la vostra su questo argomento che sembra apparentemente, detto così in teoria, lontano da voi e da noi. In realtà, insomma, tutti ovviamente abbiamo delle trappole mentali di vario genere quando dobbiamo pianificare una scelta di qualsiasi tipo. Noi stamattina parleremo delle scelte economiche, delle scelte finanziarie, quindi quali sono un po' anche quelle condizioni esogene fuori da noi che ci inducono a compiere un percorso piuttosto che un altro. Raccontateci anche come vi siete difesi in questo anno difficilissimo dalle spine finanziarie. Perché parlo di spine finanziarie? Perché il libro ha in copertina una rosa con delle spine, e quest'anno peraltro la copertina del libro, appunto lo dicevo prima, è verde, quindi insomma anche il segno della speranza. Ci faremo spiegare anche questa scelta estetica se ha delle ragioni. E poi ritenete di potervi definire investitori consapevoli? Insomma, diteci la vostra all'800240024, oppure scriveteci al 349-238-6666. La borsa stamattina, gli indici sono in rialzo piuttosto deciso in tutta Europa, mercato europeo che non ha minimamente guardato alla decisione dell'agenzia internazionale di rating Moody's, che ha abbassato il giudizio sulle emissioni obbligazionarie del governo greco con un outlook, quindi una prospettiva, una visione negativa. Tutto ciò che arriva dalla Grecia non sta scompaginando minimamente le decisioni di investimento degli investitori internazionali, e quindi il mercato guarda ad altro, guarda intanto ai dati economici americani, guarda appunto alla lettura finale del prodotto interno lordo del terzo trimestre degli Stati Uniti che arriverà nelle prossime ore, guarda anche alla ripresa della stagione di aggregazione e fusione che appunto è stata riavviata negli Stati Uniti con alcune operazioni che sono state annunciate ieri sera, riguardano il settore farmaceutico, riguardano anche poi il settore tecnologico. Insomma, tutto bene, a quanto pare il mercato sta chiudendo l'anno con questa tendenza che si ostina ad essere positiva. Parigi più 0,6, Francoforte più 0,4, Londra in rialzo dell'1,14% e anche Milano guadagna oltre un punto stamattina sul FTSE MIB. A guidare il listino di Milano è Geox più 4,55, Saipem più 2,39%, Mediaset dopo l'annuncio della fusione tra le controllate spagnola, controllata spagnola Telecinco e Quattro, un altro gruppo televisivo ed editoriale appunto iberico. Mediaset oggi ha ricevuto una promozione da parte di una casa di investimento, Deutsche Bank, che ha rivisto al rialzo il target di prezzo e su questa prospettiva, appunto su questa indicazione il mercato acquista il titolo. Exor più 1,75%, Italcementi più 1,60%, Enel più 1,56%, questi rialzi più evidenti. Bulgari invece perde lo 0,43%, adesso è il peggior titolo di Milano, Telecom meno 0,28%, Parmalat meno 0,10%, questi i ribassi più accentuati. Rapporto euro-dollaro stabile a 1,43 in questo momento, il petrolio era sui $73,50 al barile, il Brent a Londra a 72,7. Noi lasciamo la borsa e andiamo al tema di questa mattina, che in realtà poi dagli investimenti in borsa non si discosta più di tanto. Allora vi presentiamo Io ci provo, questo libro pubblicato di iniziativa appunto congiunta fra Azimut, che è una delle più note società di gestione del risparmio del nostro paese, Corriere della Sera, Paolo Martini, uno dei tre autori. Dicevamo un anno fa, io non ci casco più. Nel nostro paese, insieme a tutto il mondo, si attraversava forse il momento peggiore della crisi e voi avevate già scritto appunto che in sostanza un anno fa si aveva già voglia di guardare avanti, no? Trarre le prime lezioni della crisi. Lo scorso anno avevo ricordato prima la copertina di questo volume, lo scorso anno c'era il casco di banane, io non ci casco più. Ti chiedo insomma cosa vi ha mosso, perché avete voluto continuare questo percorso, peraltro ci puoi anche raccontare del fatto, se lo ritieni, che avete attivato un sito internet al quale molti si sono iscritti, avete una newsletter, insomma quali sono le percezioni dei risparmiatori in questo momento, cosa è successo in questo anno dopo la pubblicazione del primo volume? Sì certo, l'anno scorso abbiamo pubblicato questo libro in un momento molto molto difficile. Abbiamo fatto questo esperimento perché tale era, perché riteniamo che sia fondamentale cercare di spiegare un attimino meglio, in maniera un po' più semplice, quello che accade in questo fantomatico mondo che molto spesso comunica in maniera complessa, quindi non è facilissimo per il risparmiatore capirci. Devo dire che il nostro esperimento si è poi assolutamente stato un successo molto forte, perché abbiamo venduto oltre 45.000 copie. Con tutta onestà non ci aspettavamo assolutamente, ma soprattutto abbiamo avuto un sacco di iscrizioni a questa nostra newsletter mensile di educazione finanziaria gratuita, sono oltre 3.000 in 12 mesi, quindi un numero veramente altissimo, e ancora più importante, abbiamo ricevuto centinaia di mail da parte di risparmiatori esasperati che hanno una gran voglia di capirci un pochettino di più e di cominciare da capo. Devo anche dire che serve anche una maggior voglia di dedicare del tempo ai propri risparmi. Questo è un altro tema importante, non è un argomento facile, sappiamo che sono temi spesso abbastanza noiosi, ma occorre veramente fare uno sforzo per cercare di tutti quanti di dedicare un po' più di attenzione a questi temi. Mi piacerebbe poi capire, Paolo, te lo chiedo perché in realtà so che in qualche maniera questo tema viene affrontato da voi nel testo, se c'è anche una sorta di come dire autoesame, autoanalisi nel mondo degli intermediari finanziari. Questo è un tema che peraltro tocca nella prefazione proprio l'amministratore delegato della tua società, Pietro Giuliani, e insomma è chiaro che molto spesso, non conoscendo bene noi stessi, questo altro tema toccato dal libro, si fanno magari delle scelte di investimento non pienamente soddisfacenti, non coerenti anche con il nostro profilo di rischio e di risparmio, e però qualche volta anche dall'intermediario, insomma, non è che abbiamo un atteggiamento troppo corretto, si tende ovviamente anche, come dire, a studiare il cliente in maniera molto superficiale, ad appioppare il primo prodotto che si ha in casa, magari il più remunerativo, quindi insomma bisogna secondo me anche mettere in testa all'intermediario che bisogna fare un passo avanti un po' più intelligente verso la clientela. Allora, professor Motterlini, insomma tanta chiacchiera questa mattina, andiamo anche al concreto con lei, con la storia delle trappole mentali, perché è molto interessante. Lei, lo dicevo, è probabilmente il maggior esperto italiano di finanza comportamentale, una disciplina che forse nel nostro paese non conosciamo bene e ne parliamo solo quando si notano i grandi fenomeni finanziari, quando c'è un bel gruppo di persone che fa degli errori finanziari clamorosi, come investire in società che stanno tracollando o in paesi che stanno andando in bancarotta, e ho letto una cosa molto interessante che lei scriveva in una parte del capitolo, in una parte del libro, che il bisogno finanziario si avverte con molta difficoltà perché nelle scelte economiche noi siamo dei pigri. È così? Noi siamo dei pigri, no, più che altro nelle scelte di tutti i giorni e soprattutto in quelle finanziarie non possiamo prescindere dal modo in cui funziona il nostro cervello, che si è evoluto per rispondere in modo veloce e quasi automatico attraverso una sorta di opzione di default agli stimoli che ci provengono dall'ambiente. E quando prendiamo una decisione di tipo economico, che dovrebbe essere una decisione di tipo appunto razionale, molto ben ponderata, e dovremmo attivare quella parte del nostro cervello che ci consente appunto l'esercizio della razionalità, la parte che si è evoluta più tardi, cioè la corteccia prefrontale, noi invece vediamo che prendiamo la maggior parte di queste decisioni di pancia, cioè con le parti viscerali del nostro cervello deputate a elaborare le emozioni, esattamente l'opposto di quello che si trova sui libri di economia. Quindi non siamo agenti massimizzanti la nostra utilità, massimizzanti il nostro guadagno, i nostri investimenti, ma troppo spesso ci facciamo trascinare da una sorta di economia emotiva e prendiamo decisioni sotto la spinta delle passioni. Lei nel libro appunto indica 10 trappole mentali, sono 10 trappole che, come dire, la finanza comportamentale già conosceva da tempo. Il professor Motterini le ha elaborate a prescindere dall'ultimo anno di crisi, o qualcuna ne è spuntata fresca? No, ovviamente sono trappole abbastanza note, perché il nostro cervello è piuttosto antico e dobbiamo il merito alle scienze cognitive di aver esplorato il nostro cervello anche quando prende decisioni di tipo finanziario. Però effettivamente c'è qualcosa da dire, se vogliamo contestualizzare la crisi, che questa crisi ha detonato, ha potenziato tutte le trappole, quindi sono venute fuori in maniera quasi caricaturale, molto manifesta. Per esempio, noi sappiamo che si tende ad acquistare azioni attraverso una emozione di tipo anticipatorio, cioè noi anticipiamo il guadagno e il piacere che ci recherà il guadagno attraverso un investimento di tipo azionario, al punto che si è visto che la scelta per le azioni è correlata alle parti del nostro cervello dedicate alla ricompensa, che sono le stesse ricche di dopamina, di innervazioni dopaminergiche che si attivano per le cose che ci piacciono molto, il cibo buono, il sesso e le droghe. Mentre abbiamo visto che le azioni si vendono sotto un'emozione di tipo non anticipatorio ma reattivo, e quindi questo spiega anche perché gli stimi vanno molto più in fretta giù di quanto vadano su, e sotto la spinta magari della paura. In questo caso le aree del nostro cervello che si attivano è molto interessante, ma è l'amigdala, non è una lezione di anatomia, ma è una parte del nostro cervello che è opportuno che conosca anche l'investitore, perché quella deputata a elaborare la paura, se non addirittura il panico. Incredibile, molto interessante. Torno a Paolo Martini per l'ultima domanda prima della nostra prima pausa di oggi. Lo scorso anno, tra l'altro, ci avete presentato, Io non ci casco più, il vostro primo libro, la giornata dell'Epifania, se non sbaglio, e c'era una marea di neve anche in quel giorno. Paolo, l'anno prossimo, prima di invitarti, magari ci ripenso qualche altro secondo perché non si sa mai che tipo di bufferesca teniamo, a parte gli scherzi. Lo scorso anno c'era un po' l'ossessione in questo periodo di seguire tutto ciò che accadeva, perché eravamo probabilmente nel momento peggiore della crisi finanziaria. Adesso siamo in un momento diverso. Tu dici anche nel libro, forse una piccola luce in fondo al tunnel si vede, però siamo forse nel momento peggiore della crisi dell'economia reale, riduzione dei redditi, perdita di posti di lavoro e quindi minor capacità anche di risparmio per molte famiglie. Da questo punto di vista, che tenore hanno le considerazioni che vi arrivano sul vostro sito e che vi hanno portato anche a scrivere questo libro sulle trappole mentali in finanza? Dunque, sicuramente non è un momento facile quello che stiamo vedendo dal nostro osservatorio, che sicuramente una crisi che sappiamo era soprattutto finanziaria, oggi è diventata una crisi reale. Quello che c'è assolutamente voglia di fare da parte di molti è di capire, iniziare ad investire con metodo, perché alla fine c'è anche un tema molto importante, che è un tema del nostro futuro. Purtroppo noi viviamo in un'economia sempre più incerta, il posto fisso sappiamo, ahimè, che è diventata sempre più un sogno che non sempre è facile ottenere, per cui è sempre più importante pianificare e soprattutto saper scegliere in maniera razionale. Purtroppo, per tornare a quello che dicevi prima, c'è un concorso di colpe. Da un lato c'è un'industria che deve fare uno sforzo, e devo dire che qualche cosa sta già accadendo, volto a cercare di spiegare in maniera più semplice e a superare certe logiche di budget di breve termine che, ahimè, molto spesso è un po' troppo spesso guidano certe determinate scelte. Dall'altro, se tutti noi ci mettiamo un po' più di voglia nel cercare di capire, potrebbe essere una delle possibili soluzioni a questo. Certo, anche perché insomma la rosa con le spine indica anche il fatto che il mondo degli investimenti è fatto di rischi, per cui l'importante è avere chiara coscienza di quando questi si corrono e avere anche, come dire, in mano gli strumenti per poterli affrontare e gestire. Salva Danaio. Ritrovati in diretta, ancora buona giornata da Deborah Rosciani. Questa mattina a Salvadanaio vi abbiamo portato due dei tre autori del Vademecum Verde dell'investitore consapevole. Il libro si chiama Io ci provo, come cogliere le opportunità difendendosi dalle spine dei mercati finanziari e dalle proprie illusioni. È un'iniziativa editoriale congiunta tra Azimut, che è una società di gestione del risparmio nel nostro paese, indipendente, e il Corriere della Sera, sì, un gruppo editoriale concorrente. Noi siamo contenti di averlo portato perché anche l'anno scorso avevamo presentato il loro primo libro. Era Io non ci casco più, i primi quattro passi per rialzarsi dalla crisi finanziaria. Allora con noi stamattina Paolo Martini, direttore marketing e formazione di Azimut, e il professor Matteo Motterlini, che è un grande esperto, forse il più grande nel nostro paese, esperto di finanza comportamentale. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Io direi di cominciare ad aprire appunto il microfono ai nostri ascoltatori. Avevo chiesto agli ascoltatori se ritenessero di essere stati in qualche maniera intrappolati in qualche decisione finanziaria in quest'ultimo anno, caduti in qualche trappola mentale nelle scelte e nella pianificazione finanziaria dei propri investimenti. Sentiamo un po' che cosa ci raccontano, se sono stati stimolati da questa provocazione, da questa domanda. Gianfilippo dall'Aquila, buongiorno. Buongiorno. Che temperatura abbiamo intanto laggiù? Beh, non è freddo, ieri era freddissimo, oggi non tanto, ieri erano circa meno 5 o 6, oggi invece è più 4. Temperature, ma sperimentato anche a me. Ci dica tutto, Gianfilippo. No, dunque devo dire alcune mie osservazioni, cioè io sono da qualche anno, sono stato già vittima di trappole, perché diciamo sono stato nel mercato che mi hanno imposto i promotori finanziari, quindi con risultati sempre poco buoni, perché ho capito la finanza era un po' più un mercato della frutta, insomma. O da un po' di tempo ho cominciato a interessarmi e quindi cercare di dare più tempo al mio risparmio, ma sono sempre rimasto deluso, perché l'unico nostro modo per poter, diciamo, da risparmiatore, poter diciamo seguire il risparmio è seguire la stampa e i mezzi di comunicazione. Ma ho visto anche che la stampa in fondo non è mai attendibile o veritiera, quindi diciamo che anche la stampa è condizionata da altri. Siamo anche noi, Filippo, Gianfilippo, così? Non siamo attendibili, non siamo veritieri. Dire che siamo bugiardi è un'affermazione un po' pesante. Forse non siamo chiari. No, se non voglio riferirmi a bugiardi, però ho capito che gli articoli di giornali o anche alcune trasmissioni specializzate, diciamo, comunque fanno delle osservazioni in termini di ripresa di finanza o di crisi dettate da non, diciamo, situazioni reali. Per esempio, l'articolo di 20 giorni fa, la ripresa è in atto, alcuni articoli di alcuni, diciamo, analisti, e quindi fare alcune scelte dopo 15 giorni è tutto l'opposto. Quindi noi risparmiatori comunque siamo, diciamo, sempre intimoriti, mai, diciamo, non abbiamo uno strumento che possiamo seguire con delle linee guida e proseguire in modo attendibile. Per cui siamo sempre, siamo completamente disorientati. Guardi, Gianfilippo, il suo è un contributo molto bello, sa perché? Perché c'è un capitolo a lei interamente dedicato, che o una trappola, che è questa, cioè: se vinco è merito mio, se perdo delle circostanze. Perché Gianfilippo, senza ovviamente parlando con tutto il massimo rispetto delle sue considerazioni, come dire, professor Motterlini, vorrei ricominciare con lei. Gianfilippo in sostanza dice che è totalmente insoddisfatto anche della resa dei suoi investimenti, perché non ha un buon rapporto con il promotore, perché la stampa non dice le cose chiaramente, io vorrei fare da solo ma non ci riesco, il mercato va sempre male, insomma, vittima un po' di tutti questa persona. Poi magari gli diamo anche la soluzione per uscire da questa, che io ritengo però sia un po' una trappola mentale, quella in cui si trova Gianfilippo. Facciamo una premessa. La premessa che ci consente di capire e contestualizzare tutto il discorso è questa: fra la realtà economica che abbiamo di fronte, o ancora meglio, fra il portafoglio che abbiamo di fronte dei nostri investimenti e il modo in cui noi ce lo rappresentiamo, agisce il filtro del nostro cervello. E questo filtro è un filtro distorcente, distorce la realtà in modo sistematico e quindi prevedibile. Perché le spiego questo? Perché non possiamo avere una rappresentazione della realtà economica che ci sta di fronte precisa e netta, ma molto spesso la rielaboriamo alla luce di un nostro particolare punto di vista che può essere distorto in modo ancora maggiore dai media e del modo in cui viene comunicata la realtà economica che abbiamo di fronte o la realtà del mercato azionario, da cui la possibilità di cadere in una trappola che in questo caso per esempio potrebbe essere anche la trappola dell'avversione alle perdite, cioè di quanto male ci faccia psicologicamente perdere e vincere, perdere e guadagnare non sono simmetrici, ma per il nostro cervello una perdita pesa psicologicamente più del doppio di una vincita. E cosa significa? Che se noi perdiamo 100 euro in un investimento, per recuperare il dolore che ci ha inflitto la perdita di 100 euro dobbiamo guadagnarne un po' più di 200. Se il nostro cervello fosse, come dire, perfettamente razionale, vincere 100, perdere 100 dovrebbero essere più o meno la stessa cosa. No, distorce la realtà in un modo che psicologicamente per recuperare da una perdita dobbiamo vincere molto di più. Forse la divertirà sapere questo, sì. Che questo esperimento non è stato fatto soltanto su degli esseri umani evidentemente o osservando il comportamento umano, ma è stato fatto addirittura su una famiglia di scimmie dello zoo di Yale, dell'università di Yale. Queste scimmie, educate all'uso del denaro, non soltanto riuscivano a imparare la regola della domanda e dell'offerta, ma manifestavano una avversione alle perdite esattamente uguale a quella degli esseri umani. Quindi insomma non ne possiamo fare a meno, ecco. Per quanto possiamo essere degli investitori consapevoli e magari essere totalmente, pienamente coscienti del rischio di un determinato tipo di investimento, comunque la perdita ci peserà sempre di più di qualsiasi rendimento, magari anche migliore delle attese, professor Motterlini. Psicologicamente la perdita è molto importante, così importante che non è soltanto una questione culturale, ma come stavo dicendo parlando delle scimmie, è una questione che potremmo dire evolutiva, come se l'avversione alle perdite fosse iscritta nei nostri geni e quindi nel nostro cervello. No, tra l'altro stavo riflettendo, una perdita attesa avrà un certo valore, ma una completamente inattesa, come quella derivante da un crack finanziario in cui rimaniamo inconsapevolmente invischiati, figuriamoci quanto può pesarci. Perfetto, infatti si è visto che il nostro cervello e la nostra siamo molto più sensibili a una sorpresa che a qualcosa che siamo in grado di anticipare, quindi la perdita per esempio in un investimento di obbligazionario è decisamente più dura da accettare e lo vediamo proprio a livello di attivazione di specifiche aree. Questo, pronto? Sì, sì, ci siamo. Sento strani rumori, sto parlando dal cellulare. Noi invece benissimo, per fortuna. Ok, sì. Perfetto. E quindi anche il nostro cervello si vede che proprio reagisce a questi stimoli, quindi la perdita inaspettata, così come la vincita inaspettata, stimolano molto di più le aree di cui parlavamo prima, che sono le aree della ricompensa. Volevo ritornare a Paolo Martini, perché c'è un altro aspetto della considerazione che ha fatto il nostro ascoltatore dell'Aquila, molto interessante, che mi ha colpito molto, e cioè lui ha detto: io sono stato vittima delle scelte che mi ha fatto fare il mio promotore finanziario. Allora, siccome c'è un capitolo molto interessante sul tema del metodo in questo libro, e una delle indicazioni più importanti che dal libro emergono è che mediamente per fare anche delle scelte di investimento, non dico vincenti, ma quantomeno corrette e coerenti con il nostro profilo, una delle soluzioni è quella di trovare il metodo condiviso con il promotore finanziario. Mi sembra che questa sia una strada difficilissima da percorrere però, Paolo. Sì, è una strada non semplice. È chiaro che se uno pensa di poter fare delle scelte di investimento esclusivamente guardando i giornali e vedendo quelle che sono le varie opinioni sull'economia, è un esercizio molto difficile, anche perché ci sono tantissimi pareri, ognuno dice la sua, ma quello che ha dimostrato la crisi del 2008 è che la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, per cui come consiglio, prima di tutto, io diffiderei sempre da chi mi dice io so come andranno i mercati il prossimo anno. Quello dove bisogna concentrarsi invece è sul metodo, e il metodo non può essere un metodo che va bene per tutti, ma deve essere un metodo il più possibile adatto al singolo individuo. Banalmente un modo per cominciare importante è capire perché si sta investendo. Questa può sembrare una cosa ovvia, ma se ognuno di noi si chiede ma io perché investo, non è così facile darsi una risposta, perché uno normalmente dice investo per guadagnare di più. Ecco, questo non basta, quindi il primo sforzo da fare è cercare di capire il perché. Voglio comprarmi una casa, esatto, e lo si deve spiegare molto rigidamente, molto attentamente e accuratamente all'intermediario che si sceglie. Assolutamente. In modo da vincolarlo anche, quindi se poi ci sono delle perdite inattese e non giustificate, possiamo essere in grado anche, come dire, di avere gli strumenti in mano adatti per potergli dire non hai fatto il tuo dovere, magari non ti meriti neanche la parcella che ti do. Paolo, adesso non vorrei essere così estrema, no, però è vero, cioè è anche legato al tema che è fondamentale, che è il tema della fiducia. Se uno si fida del suo consulente, deve potergli dare le informazioni che lui chiede, ma non come puro esercizio teorico, ma perché sono utili, perché se io non so bene tutte le informazioni difficilmente potrò aiutarti in maniera concreta. Un po' come andare da un medico e dirgli soltanto alcune cose e non raccontargli altre. Infatti, no, anche lì il paragone col medico è assolutamente pertinente e calzante. Se io vado dal medico perché ho dei malesseri, sono mediamente abbastanza capace di spiegargli quello che sento, perché fisicamente è possibile farlo forse. Con anche l'esigenza finanziaria invece si fa molta più fatica a dire a cosa ci serve il denaro. Devo accantonare perché devo formare la pensione con la quale dovrò campare una volta che ho terminato il mio lavoro altri 30 anni minimo, oppure ho un piccolo gruzzoletto, devo comprare casa fra 2 anni, devo dirlo all'intermediario in modo tale che mi accantoni quella somma e me la renda anche, come dire, movimentabile, passatemi il termine, smontabile abbastanza rapidamente, quindi non mi deve dare un prodotto nel momento in cui io chiedo il riscatto, pago chissà quale penale. Quindi insomma faccio sempre questo esempio, ma mi sembra abbastanza utile. Paolo, tra l'altro noi adesso andiamo ad una nuova pausa alla viabilità, ti volevo chiedere, visto che ce lo stanno chiedendo alcuni ascoltatori, dove troviamo il libro e l'indirizzo internet per poterci, perché lo farò anch'io, iscriverci alla vostra newsletter. Allora, il libro si trova in tutte le edicole italiane fino al 31 dicembre e il sito si chiama www.iononcicascopiusenzaaccento.it. Tutto attaccato. Salva Danaio. Ritrovati a Salva Danaio, in queste puntate pre-natalizie ci stiamo dedicando molto alla lettura, vi stiamo dando tante indicazioni di testi che magari potranno allietare le vostre giornate sotto la neve, e questa mattina vi abbiamo portato a Salva Danaio 2 dei 3 autori di Io ci provo, come cogliere le opportunità difendendosi dalle spine dei mercati finanziari e delle proprie illusioni. Peraltro Paolo Martini, sto dicendo in continuazione 2 su 3, chi è il terzo oltre a te? Il professor Motterlini, chi altro vi ha dato un contributo appunto per la stesura di questo testo? Mi sembra corretto ricordarlo. Certo, infatti stavo per farlo io, come per lo scorso anno, Alberto Fedel, che è amministratore delegato di Newton Management Innovation, che è una società che da tanti anni forma i consulenti finanziari, quindi conosce molto bene il tema. Quindi insomma 3 figure anche molto molto molto differenti, e quindi insomma 3 contributi molto interessanti. Gianfranco da Pordenone, buongiorno, nostro affezionatissimo ascoltatore che non sentivamo da un po', spero tutto bene. Gianfranco, benvenuto. Tutto bene e buongiorno a voi. Allora, volevo fare i complimenti agli autori del libro, che secondo me dovrebbe essere distribuito a tutti i clienti delle banche. Quello che riscontro dialogando giornalmente con i miei clienti, io sono promotore finanziario, è spesso la totale ignoranza in materia finanziaria, per cui reputo giusto l'iniziativa dell'ANAS di portare questa materia nelle scuole. Nelle scuole, sì, infatti. Come è giusto lavorare per garantirsi una giusta pensione, è altresì giusto poter conoscere quegli aspetti legati al mondo della finanza che spesso certi consulenti, lo metto fra parentesi, bancari in particolare, nascondono ai clienti per poter meglio collocare certi prodotti convenienti, sì, ma solo per la banca e non per i clienti. Gianfranco, le chiedo una cosa però, guardi, allora io vado in una concessionaria dell'auto perché ho bisogno dell'auto, ovviamente io di motori, come è facile comprendere, non ne capisco niente, però posso spiegare molto bene al mio concessionario di che cosa ho bisogno di una piccola utilitaria per viaggiare a Milano, ovviamente parcheggiarla facilmente, che consumi poche e tante altre cose. Allora io mi chiedo, a prescindere dal fatto che la gente non conosca magari bene la dinamica dei prodotti finanziari, perché a parte i bot e le azioni tutti gli altri sono molto complessi, agganciati alle borse e quant'altro, lei riesce ad intavolare comunque con la sua clientela un discorso costruttivo e a carpire almeno molto bene quelle che sono le esigenze? Perché il problema molto spesso sta tutto lì, quello che il cliente non riesce a spiegare all'intermediario che sceglie quelli che sono i suoi bisogni finanziari. Lei quanta fatica fa se la fa su questo? Guardi, io sono favorevolissimo all'istituzione della legge MiFID, perché questa serve per tutelare i clienti, in quanto definisce quel profilo di rischio che serve a noi per portare avanti la nostra pianificazione finanziaria. Ho visto però, come hanno sottolineato gli autori, il libro l'ho letto proprio i giorni scorsi, che i clienti colti dalle fasi di panico tendono a vendere, dopo sta a noi bloccarli, tendono a vendere al punto minimo per poi magari ricomperare quando i mercati hanno già corso. È quindi giusto ricordare a certi clienti certi obiettivi, come fanno capire il libro, concordati con il consulente, ma lo ribadisco, è giusto acculturare gli stessi affinché le istituzioni bancarie favoriscono l'educazione finanziaria in maniera più efficace, regalando anche questo libro, che tra l'altro non costa molto, a tutti i clienti. Quindi. Grazie Gianfranco, grazie molto, insomma anche dagli addetti ai lavori vi arrivano dei complimenti, ne siamo contenti. Professor Motterlini, cosa pensa di quello che stava sostenendo il nostro ascoltatore? Peraltro poi c'è anche il tema dell'investimento e del periodo prescelto anche dell'investimento, perché questa è una crisi che ha completamente sconfessato anche la regola del lungo periodo dell'investimento azionario. Insomma, è come glielo diciamo agli ascoltatori che devono accantonare, che vogliono la borsa, che devono accantonare per vedere dei rendimenti soddisfacenti il proprio patrimonio almeno per oltre 10 anni, perché questa è una crisi che ha bruciato tutti i rendimenti della borsa degli ultimi 12 anni, se non sbaglio. Professor Motterlini. Io ringrazio Gianfranco che secondo me ha posto l'accento su un aspetto molto interessante che mi consente anche di completare il discorso sulle trappole mentali. Però con un esempio prima, che sono quelli che piacciono alla radio. Ed il cosiddetto effetto incorniciamento, la trappola di come incorniciamo le nostre preferenze. Secondo lei, se lei a dieta, Deborah, preferisce uno yogurt al 95% magro e al 5% grasso, se va a fare shopping preferirà un guanciale con 80% puro cashmere o 20% misto lana. Stiamo parlando dello stesso yogurt, dello stesso maglione, ma io posso incorniciare il suo problema di scelta in modo da orientare la sua scelta su un maglione piuttosto che un altro, evidentemente. Certo, preferirò quindi, ovviamente, quello dell'80% in cashmere, quindi che trappola mentale scattata nella mia testa. Che io ho incorniciato un problema di scelta in un modo da rendere la scelta molto allettante o la scelta molto meno allettante, 20% misto lana, evidentemente. Questo si è visto che vale per le decisioni mediche, può valere anche per le decisioni finanziarie. Questo cosa mi consente di dire? Che io spiego come funzionano le trappole mentali e mi metto dalla parte del consumatore perché le possa disinnescare, ma questo non impedisce a chi è cinico di costruirsi delle trappole per ingannare il consumatore. Quindi quello che dice Gianfranco è molto importante. L'unica possibilità di difenderci dalle trappole è conoscere meglio, avere maggiore conoscenza di quello che sono i rudimenti della finanza. E io ci aggiungo, ed è questo il contributo, se volete, particolare anche rispetto a Io non ci casco più, che offre Io ci provo, accanto ai rudimenti di finanza, l'ABC della finanza, che non si può non sapere se si investe, occorre sapere anche qualcosa di noi stessi, cioè di come ragioniamo, di come prendiamo le nostre decisioni e di come in alcuni casi cadiamo sistematicamente in errori che ci fanno molto male. Adesso sentirei, perché vorrei tornare proprio alla questione dell'investimento in borsa e del lungo periodo, andrei da Maria, da Genova. Maria, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Allora, la mia esperienza è questa. Nel giugno 2007 ho venduto un immobile, quindi ho avuto una disponibilità. Ci siamo recati con mio marito in una, noi abbiamo un'attività, quindi in una delle banche con cui collaboriamo strettamente, e abbiamo portato questa cifra notevole, per noi almeno. Eravamo completamente digiuni di borsa, nel senso che non ne abbiamo mai usufruito. La direttrice ci ha presentato una loro dipendente che trattava queste cose e noi ci siamo affidati ciecamente, per la fiducia che c'era, a questa persona, la quale ci ha fatto un portafoglio che è stato definito poi spaventoso da altri consulenti, operatori, sì, perché ci ha investito, ci ha lasciato fuori solo una minima cifra, diciamo, di obbligazioni convertibili, tutto il resto nell'azionario. Ci ha fatto comprare le azioni della banca ad un prezzo altissimo, e io pensi, entrando a giugno, che mi hanno detto che è fisiologico che ad agosto la borsa scenda, quindi bastava che io passassi agosto e poi a settembre non è più risalita, sì, perché c'è stato lo tsunami, e ne sarei stata diciamo esente. Io mi ritrovo ho perso il 60%, adesso sono al 45-50%. Infatti, perché la borsa sta recuperando molto da marzo, Maria. Allora, guardi, io adesso non voglio interromperla brutalmente, ma ho pochi minuti di tempo, quindi magari vorrei far commentare il suo caso dai nostri due interlocutori. A parte Non lo so, ci sarebbero tante cose da dire, ma intanto proprio dal punto di vista dell'investimento azionario, ovviamente Maria Paolo Martini, vengo da te, controlla il suo patrimonio investito in borsa perché è giusto che lo faccia, però in tema di investimento azionario forse un controllo ossessivo non si dovrebbe avere e, come dire, a volte si dovrebbe avere la tendenza, passatemi il termine, so che non è corretto, di dimenticare quasi l'investimento che si è fatto e quindi lasciarlo andare per un tot di anni. Certamente il timing dell'ingresso in borsa per Maria non è stato quello che gli ha fatto la banca un suggerimento ottimale, perché è entrata in giugno e da lì in avanti, insomma, eravamo nel pieno della crisi. Quali riflessioni possiamo fare sul caso della nostra ascoltatrice? Ma sì, direi che è un caso abbastanza emblematico, è uno dei tanti casi. Infatti, magari rassicuriamo anche Maria da questo punto di vista. Esatto, che non è l'unica. No, assolutamente no. Qui ci sono due ordini di considerazioni. La prima, beh, chiaramente che il periodo è veramente un periodo molto molto sfortunato e questo è indubbio. La seconda, però molto più importante, è che non deve mai accadere che uno non sa esattamente quello che sta acquistando. Infatti, e questo, cioè, purtroppo, come dire, la Maria sono digiuna di borsa e ha messo i soldi tutti là. Lì già, secondo me, senza volerla poverina adesso anche colpevolizzare, perché non è neanche il momento, però un errore di fondo c'è stato. Sì, diciamo che c'è stato, ma soprattutto c'è stato da parte dell'intermediario, che deve sempre capire chi ha di fronte, sforzarsi di capire bene che cosa necessita e non deve, come purtroppo accade spesso, pensare a logiche più sue che non del cliente dall'altra parte. Sul tema della fiducia, che è un tema fondamentale, è alla base di questo, secondo noi, che si pone gran parte dei nostri rapporti, perché alla fine non è possibile che accadano cose come quelle che abbiamo visto, perché secondo noi la domanda che bisogna sempre porsi è: ma il mio consulente, anche se ne avesse la possibilità di trarne un vantaggio personale, che però per me non è tale, come si comporterebbe? Secondo me questa è, se ci deve essere una fiducia vera, una delle domande principali che occorre porsi. E poi c'è una serie però di semplici a fare poi un attimino meno regole, secondo me, che possono essere seguite, che possono aiutare molto. Non so se c'è il tempo adesso. Guarda, se ce la fai in 30 secondi, Paolo, sì. Allora, in 30 secondi sono: uno, iniziare a investire appena si può, perché questo è un tema importante, perché comunque, a parte gli ultimi 10 anni sfortunati, il lungo periodo serve e ha ancora una sua utilità. Secondo, utilizzare un metodo. Terzo, non investire nelle azioni dei soldi che ci servono nei prossimi 2 anni, perché questo è un rischio troppo alto. No, magari ci serve anche come suggerimento l'ascoltatrice, a Maria. Esatto. Deve avere un po' di pazienza. Nel lungo periodo sicuramente il suo investimento riprenderà quota, almeno andrà alla pari, la borsa è ricresciuta da marzo, quindi un po' di pazienza, Maria, e sia tranquilla, insomma, che magari ha fatto la scelta non coerente con le sue esigenze, però non ha neanche fatto niente di disastroso. Sì, Paolo, concludi se ce la fai in 30 poi, secondi. Appunto, occorre che ci sia un giusto compagno di viaggio, e poi una delle cose più importanti è investire solo su quello che si capisce. Se uno non capisce qualche cosa, deve chiedere, perché dall'altra parte c'è qualcuno che è pagato per darti un consiglio. Benissimo, questo è importante. Grazie, tutto il resto lo trovate nel libro. Io ci provo, io ringrazio Paolo Martini per essere stato con noi. Paolo, buone vacanze. Il prossimo anno, se avete già in mente come costruire il terzo volume, lo farete? Ci stiamo pensando, direi che è abbastanza probabile. Benissimo, professor Motterlini, grazie anche a lei. Non riesco a farla concludere, ma io la ridisturbo nuovamente più avanti. Grazie, arrivederci. Arrivederci, buon Natale. Noi ci fermiamo, saremo in diretta anche domani, poi vi dico la nostra perché molti ce lo stanno chiedendo. Pianificazione natalizia, ma ci saremo praticamente quasi sempre. Buona giornata.